A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Mentre gli ultra della Lazio provano a farsi giustizia, ma de che? Mentre quelli del Napoli organizzano spedizioni punitive in furgone, mentre quelli di Fiorentina e Roma si prendono allegramente legnate, che fa la Federcalcio? Decide di punire i giocatori che bestemmiano e quelli che scrivono qualcosa sotto la maglietta. Nel giorno della sentenza Raciti la trave gronda sangue, però la pagliuzza dà un po' fastidio all'occhio e allora è meglio occuparsi della pagliuzza. Per la trave, visto mai, servirebbero coraggio e chiarezza di idee. Questa frase non è mia, l'ha scritta stamane Maurizio Crosetti su Repubblica, che poi conclude così questo suo commento che io condivido al 1000%. In un giorno così tra feriti e boati forse sarebbe stato più serio occuparsi dei fanti e lasciare stare i santi. Dopo aver letto e condiviso mi è venuta una gran voglia di riascoltare la voce di un vecchio saggio, non poi così vecchio saggio, certamente sì. Bentornato Dino Zoff. Ciao, bentornato a te e a tutti. Dino, non per farmi gli affari tuoi, ma tanto per cominciare, tu non dovresti essere a Torino a allenare la Juventus? Ah no. No? No, nel senso che ufficialmente io non ho ricevuto nessuna telefonata. Sì, per vie traverse qualcuno ventilava, ma vie traverse, poi io conosco Bettega, eccetera, quindi se c'era qualche posizione chiara me l'avrebbero detto, insomma, probabilmente non c'era niente. Probabilmente non c'era niente, quindi mi azzeri la domanda successiva che era: ma se invece che vie traverse avessero imboccato l'autostrada, tu a grandi linee gli avresti detto di sì o di no? Beh, dipende che autostrada è, se ha tre corsie se ne può parlare. Questa non è male. Dato che garantisco che non è concordata, questa non è male. Il testimonio della forma del vecchio Dino che non la perde davvero. Senti, io ricordo che quando la prendesti qua sotto gli occhi anche tutte le tabelle e i risultati di allora, quando te la fidarono nell'88 fino al 90, non è poi che fosse tanto tanto meglio conciata di adesso, la Juve? Beh, no, veniva da un anno precedente che era una delle Juve veramente poca cosa, ecco, sì. Difatti Marchesi fece un miracolo a riportarla nelle coppe. Poi l'anno dopo, il mio primo anno così, e poi dopo finimmo in bellezza. Poi per me non c'è stata troppa bellezza. No, certo. Ma fa parte della vita. Fa parte della vita. Non gli è bastata una Coppa Italia e una Coppa UEFA con quella squadra? È un terzo o quarto posto in campionato. Esatto. Non è bastata perché c'era un profeta in arrivo, no? Se non ricordo male. Ma sì, era un cambiamento generale, sì. Quindi direi che hanno voluto cambiare tutto. Poi dopo quello che è successo è stato un disastro, però insomma è stato fatto. Senti, visto che sono indiscreto, poi la smetto, a nessuno è venuto in mente che magari avresti potuto rifare qualcosa di buono anche per la Lazio? Ma non so, tutti mi propongono, però nessuno mi piglia. No, la sora Camilla, sì, appunto. No, al di là delle considerazioni, la Lazio, poi c'è Lotito che probabilmente non credo potesse pensare a Zoff, insomma, è lui in prima persona su tutto, quindi direi che non c'era posto. Non c'era posto. Delle tue squadre storiche, mi pare che in questo momento, dato che insomma in genere un giocatore quando passa tanti anni nella società poi rimane affezionato, mi pare che in questo momento solo il Napoli ti stia dando qualche soddisfazione, qualche gioia. Beh, effettivamente sì, il Napoli sta andando bene, a parte domenica con mille contestazioni, però sta facendo il suo, il Napoli, credo che sia dura continuare su questo cammino, ecco, però sta facendo bene, io credo che invece sia Lazio che Juventus siano destinate a risalire. Sì, quindi secondo te sono crisi momentanee e non strutturali, dici? Momentanea no, perché sono lunghe, ecco, appunto. Sono quasi dall'inizio, ecco, se non proprio dall'inizio, però diciamo la potenzialità degli organici mi sembra attrezzata per far meglio, insomma è doveroso. Un po' di palo in frasca, anche ai tuoi tempi in campo insomma, non c'erano le educande, no? Anche se il calcio di allora nasceva all'oratorio, anche all'oratorio partivano partivano delle bestemmie. Diciamo qualche Madonna viene sempre, l'importante è che non sia plateale, eccetera, insomma no. Che non sia eccessiva. Non si gioca a biliardo, no. Proprio, ecco. Senti, e a proposito di questa qualche Madonna, io ho rivisto per esempio di recente su ESPN, su questo canale di Sky che ridà i grandi eventi di tutti i tempi, ho rivisto per l'ennesima volta, non so che volta sia, ma erano passati un po' di anni e quindi non mi ricordavo tutto di Italia-Brasile 82. Ho notato per esempio, senza poi anche qui violare troppo la privacy, che in ogni caso allora non c'era l'abitudine dei cameraman e dei registi, finita l'azione, di stringere subito sul primo piano, e forse è per questo che voi passavate un pochino più indenni rispetto a questa qualche Madonna che volava. Beh, probabilmente sì, però nel mio caso in campo potevo arrabbiarmi così, però ho sempre avuto rispetto dei compagni, quindi se dicevo qualcosa era sempre contro me stesso, ecco. Sì. Con gli altri cercavo sì, con una certa durezza di magari di svegliarli in un momento particolare, ma non ho mai adoperato parole offensive con nessuno dei miei compagni. Soprattutto sulle quelle che poi da lì a qualche anno si sarebbero poi chiamate palle inattive. Io ricordo che tu eri particolarmente attento e severo a come si disponevano davanti a te quando la palla era ferma. Beh, indubbiamente, perché adesso ci sono dei tiratori eccezionali, quindi forse è ancora più difficile, però certamente l'organizzazione, la non confusione può essere determinante, ecco, indubbiamente, sui corner specialmente, quando veniva un avversario su di me, il mio compagno si metteva dietro per coprirmi, io dicevo non ti preoccupare, tu marcalo davanti, se viene la palla alta la prendo io, quindi diciamo che sono poche cose, delle volte possono essere determinate. Certo. Senti, c'era in genere più sobrietà, su questo non c'è dubbio, lo ripeto avendo rivisto partite di quell'epoca. Quando Tardelli segnò quel famoso 2-0 in finale alla Germania e fece quell'urlo che non finiva mai in giro per il campo, quella esultanza passò alla storia, tant'è vero che è stato per tantissimi anni addirittura uno spot e ancora adesso lo si rivede. Lo si rivede perché era la normalità, anormalità, nel senso che c'era molto più compostezza invece allora in campo, ma anche sulle panchine, mi pare, soprattutto. Beh, direi di sì, ecco. Tardelli aveva un carattere particolare, quindi si è sfogato così, ma naturalmente, insomma, io da capitano e da allenatore ho sempre cercato di essere, insomma, parchi in scene d'entusiasmo o in sceneggiate, come si facevano qualche tempo fa, o mimando tante cose, insomma, io ho sempre pensato che l'avversario, insomma, non dovesse essere beffeggiato, ecco. Certo. A meno che non si buttasse, ma qui dobbiamo fare un piccolo intervallo prima per aggiornare il traffico sulle strade, così ti ho già buttato un tema che so che ti trova particolarmente sensibile. C'era in genere più rispetto dell'avversario, ci stava dicendo Dino Zoff, con una eccezione, perlomeno per quel che ti riguarda, che credo duri ancora, poi sei tu a dover rispondere, cioè quello nei confronti dei simulatori. Ma guarda, i simulatori non li ho mai potuti soffrire e quindi direi che sono veramente contrario, eccetera, perché secondo me il calcio ci deve essere sport, lealtà. Se vogliamo far diventare tutto spettacolo, essere furbi per avere un vantaggio immediato, che poi è una carenza di un giocatore, io credo che, insomma, la forza di rimanere in piedi, non ricorrere a queste furbizie, gli fa migliorare la sua caratura tecnica, agonistica, morale, e quindi non li ho mai sopportati. È una forma, tu dici, di rispetto di se stessi, quello di non, prima ancora che di rispetto degli altri, rispetto di se stessi, quella di non buttarsi per terra. Ma indubbiamente, ma anche poi per se stessi, ma anche per gli altri. Insomma, lo sport, a parte che forse adesso è più spettacolo che sport, comunque deve avere delle regole, se no cosa possiamo insegnare ai figli? Vogliamo portarli allo sport per insegnare a essere furbi? È meglio che vadano a musica. Certo, è meglio che vadano a musica. A parte il fatto che, vabbè, questo è un inciso che non c'entra nulla, se avete ascoltato le ultime notizie sul traffico e sulla meteorologia, sta nevicando a Parma, il che significa che non sempre rinviare una partita quando la si può giocare è una grande idea, perché poi magari arriva la seconda volta in cui nevica davvero e ti tocca rinviarla una volta ancora. Molti della tua generazione, che mi capita di frequentare o di sentire o di coltivare, sono diventati esterofili. Ti faccio il caso di Ottavio Bianchi. Che Ottavio Bianchi continua a tu hai giocato anche con Ottavio, credo, a Napoli. Sì, a Napoli. Lui continua a essere, per carità, interessato al calcio, eccetera, eccetera. Però ha ristrutturato le sue settimane. Lui deve vedere giocare il Barcellona, assolutamente, perché se non vede giocare il Barcellona e non vede giocare Messi, gli manca qualcosa. Io personalmente lo capisco molto. A te capita, passando il tempo, di, come dire, staccarti un pochino dal calcio magari italiano e di trovare motivi di interesse superiori altrove? Beh, insomma, tu parli del Barcellona, dove è la quintessenza calcistica sotto l'aspetto tecnico, tattico, insomma, ma soprattutto tecnico, sì. E quindi direi che è il massimo, uno dei massimi certamente. Poi puoi andare anche a vedere il Chelsea o qualche altra, sì, o il Manchester, insomma, quelli che vanno per la maggiore, che riescono a dare spettacolo pur giocando e facendo risultati. Ecco perché da noi spesse volte diciamo, voi pensate solo a vincere. Io credo che la vittoria passi anche dal bel gioco, giustamente, giustamente. È in contrapposizione, no, ecco. Però certamente questi vanno per la maggiore, anche se noi secondo me abbiamo le qualità per poter fare qualcosa anche contro queste squadre. Dino, tu sei stato, non sto a usare l'aggettivo perché grande sarebbe già riduttivo, sei stato comunque calciatore, allenatore di club e di nazionale e presidente. Se un giorno ti capita di leggere una situazione o di sentire di qualcosa, in quale di questi ruoli ti sentiresti ancora di incidere oggi, di incidere Ma di più? Insomma, logicamente. Da calciatore no. Quello sarebbe la prima opzione, ma sarebbe... Ma sai, uno che diventa campione del mondo a 40 anni, 4 mesi, eccetera, che è tuttora un record imbattuto, potrebbe... Adesso è chiaro che era battuta, ma la tua longevità c'è già stata in carriera, intendo dire. Beh, logicamente, insomma, l'allenatore anche ho un'età e quindi largo ai giovani mi sembra anche giusto e doveroso, ecco. Poi certo nell'ambito dirigenziale qualche parola potrei dirla, però mi sembra che non ci sono possibilità neanche da quel lato lì. No, chissà perché le persone con la famosa schiena diritta non hanno questo grande appeal, no? Presso lor signori di oggi, mettiamola così. Come se la sta cavando a parer tuo il tuo ex compagno di squadra Platini nel ruolo di presidente UEFA? Ma per me alla grande, ma anche perché è innamorato del calcio, non è un politico del calcio, è un innamorato del calcio, quindi la base del suo pensiero passa dal campo, dal gioco, dalle condizioni che debbono avere le squadre per giocare meglio, per avere certe regole, e credo che stia facendo ottime cose. Prenderò questo frammento radiofonico, lo girerò alla sede dell'UEFA Nyon oggi stesso e sono certo che Platini ti telefonerà o ti scriverà, perché il tono con cui hai risposto certamente gli farà un enorme piacere. Senti, prima di perché ogni tanto queste chiacchierate sono molto belle, ma purtroppo si concludono. Un paio di capitoli ancora. Una è quella sui giovani portieri. Io dico due o tre nomi. Per esempio dico Viviano, dico Marchetti e dico Sirigu. Si muove qualcosa secondo te? Ma io credo di sì, che con questi tre nomi si sta muovendo qualcosa, perché naturalmente Sirigu deve confermarsi poi il prossimo anno, però sì, sta dimostrando bene cose. Viviano, che avevo qualche leggero dubbio l'altro anno, dove era considerato un fenomeno, e invece si sta comportando molto bene a Bologna, e quindi direi che anche lui è in una buona, conferma. Poi Marchetti sta facendo già un anno che sì, sta facendo bene, quindi direi un certo movimento c'è. Domanda finale, Dino. Parliamo di commissari tecnici, ma in generale, cioè da un punto di vista di filosofia, il tuo maestro Bearzot ha sempre sostenuto, e non ha ancora cambiato idea, tra l'altro, che il commissario tecnico ideale deve venire dai ranghi federali, o perlomeno deve aver avuto un lungo passato attraverso le giovanili o attraverso le olimpiche o attraverso quello che vogliamo, o essere stato nazionale molto molto a lungo, e quindi deve arrivare più dai ranghi interni, come dire, che non dal cosiddetto mercato. Secondo te oggi sarebbe ancora un concetto attuale? Ma direi che è un concetto valido senza dubbio, perché arrivando dalla casa della nazionale fa sempre proprio, è votato a conservare la casa nei migliori dei modi, sì, e quindi ha un concetto proprio di appartenenza che è utile per la squadra, per la nazionale, per tante cose. Però il mondo ormai viaggia su fenomeni anche immediati, quindi quando arriva uno poi vinci, tutte le altre considerazioni vengono messe da parte. Spariscono. Però certamente appartenere a un casato importante come la maglia azzurra è comunque positivo. Un casato importante come la maglia azzurra, che bella espressione. Oh, allora guarda che mando quella frase a Platinidino, eh? Sì, va bene, sarà fatto. Grazie, un abbraccio. Prego, saluto, ciao. Chiudiamo questo collegamento. Io spero vi divertiate e sentiate quel po' di corrente anche voi. Io ogni volta che parlo con Dino il monumento, sinceramente è un piacere personale. Ripeto, spero di trasmetterlo. Roberto ha chiamato da Torino. Buongiorno. Buongiorno, signor Gigi. Dica. Io volevo fare riferimento più che altro al discorso iniziale che ha fatto lei di introduzione su quello che sta succedendo da parte dei tifosi delle altre squadre che stanno protestando per l'andamento della squadra. Io appunto, invece di dedicarsi, e loro si dedicano appunto a questa cosa che è uscita della bestemmia in campo. Ecco, questa è un regolamento che in Serie A esiste già, in Serie A, in tutto il calcio, quindi non capisco perché in Serie A non viene applicato, mentre invece nei campionati tipo CIS, WISP, gli altri tipi di... chi bestemmia praticamente viene espulso. Sì. In Serie A invece sono le prime donne e possono permettersi di far tutto. A me viene ho questa sensazione che se vai davanti all'arbitro a battergli le mani, cioè questo si sente essere spergiurato, perché viene più rispettato l'arbitro rispetto appunto Dio. Viene a pensare questo, perché non è possibile. Dirò che io sono di quell'avviso lì, Roberto, perché io non mischierei mai le cose. Cioè, si sta giocando a pallone, non si è a messa in quel momento. Io ho qualche fiera e laica riserva su questo provvedimento. Poi, se parliamo di educazione, se parliamo di volgarità, se parliamo di ostentazione, sono d'accordo. Ma insomma, Andrea stamane ha scritto da Vicenza questa mail. Sta cosa delle bestemmie. A proposito, per la parola TV basta il labiale o serve il sonoro? E chi se la studia quella in lingua straniera? E se nella lingua di Morimoto una cipicchia assomiglia a un orrendo insulto, cosa facciamo? Sono tutelate tutte le religioni? Avremo dei bonus noi poveri veneti? Scrive appunto questo vicentino. Mi ricorda tanto quella del terzo tempo. Ma per caso questi signori hanno visto il vero casino che c'è là fuori? Ecco. Io la penso come questo signore, la penso come Maurizio Crosetti, la penso come regolamento che lei ha ricordato, che in caso di bestemmia palese in campo udita dall'arbitro, è già previsto il provvedimento di espulsione. Ma dato che sono previste tante cose nei regolamenti attuali e che non vengono fatti rispettati e il cui rispetto non viene richiamato con questa autorevolezza, beh, mi chiedo francamente dove, no, se fosse poi il caso di intervenire con questa cosa, a parte il fatto delle difficoltà che si creano al giudice sportivo per i labiali, il ricorso alla prova televisiva, questo lo trovo veramente demenziale, ma con la D maiuscola. Carlo, provincia di Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Telefonavo sperando nella presenza di... per una legge di compensazione. Zoff salvò i mondiali a un minuto dalla fine con quella parata e a 17 secondi dalla fine nel 2000 si è perso, ma non per colpa sua come dice qualcuno. Io volevo chiedere a questo, non mi è stato possibile. Per me la parata più difficile in quella partita Brasile-Italia la fece uscita a raso terra al limite dell'area, che è molto più difficile prendere i tempi. Volevo dire solo questo. E probabilmente la prossima volta glielo chiederò, sono cose a cui lui ha risposto tante volte. Può darsi che passando il tempo che abbia anche cambiato opinione, perché poi la percezione di un impreso, di un miracolo, una prodezza cambia anche nel tempo. Io continuo a pensare che quel tuffo sul colpo di testa di Oscar alla fine, anche per il momento in cui arrivò, rimanga il clou, ma ripeto, la prossima volta se ne parla. A Parma non sta nevicando, ci sono anzi 6 gradi, mi informa Roberto con una mail arrivata urgentemente. Altri messaggi di questo tenore sono arrivati da Parma e immediati dintorni, quindi giro un'informazione ai nostri informatori sul traffico e sulle condizioni meteo, perché evidentemente sarà più nella zona di Reggio, di Modena. Ho sentito, prima l'abbiamo sentito tutti, no? Dire che stava nevicando in quella zona e citare anche Parma. Parma non nevica, al momento non nevica per nulla. Poi ci sono una serie di altri messaggi interessanti, anche una sollecitazione di Maurizio Zerbo, dice: lei ha letto prima un bell'articolo di Crosetti di stamattina, mi permetterei di suggerire quello di Gramellini sulla Stampa. Beh, Gramellini è uno che andrebbe letto praticamente tutti i giorni, in questo ambito perlomeno, quando si occupa di argomenti sportivi o parasportivi. In effetti quello di oggi vale la pena e tra poco toccherà a lui. Sentiamo Davide da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo entrare, diciamo, nel discorso da Lazio. Io sinceramente mi rendo conto che quello che è successo ieri, secondo me, è stato un atto dovuto contro questa presidenza. È stato un atto dovuto contro questa gestione e questa presidenza. Cioè il fatto di invadere Formello e di scontrarsi con la polizia? Certo, è caduta la linea, Davide. Grazie, sta cadendo la linea. La ringrazio del suo pregevole punto di vista. Raffaele da Padova, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una riflessione brevissima sugli scontri e le violenze che si verificano quasi tutte le settimane negli stadi, ma non sarebbe molto più serio affrontare e possibilmente risolvere il problema costringendo le società a munirsi di steward o comunque di vigilanza apposita anziché impegnare le forze dell'ordine? La ringrazio. Non so, abbiamo avuto un esempio qualche istante fa, no? Di steward. Gli steward in genere provengono dalle fila del tifo organizzato, ripeto per l'ennesima volta, queste sono cose che possono andare bene nei paesi che hanno conquistato un certo grado di civiltà, diciamo credibilità, diciamo di autonomia da questi punti di vista. Non mi pare che il nostro sia questo. Sentite Massimo Gramellini che scrive oggi questo articolo sulla Stampa dal titolo La democrazia dei tifosi. È bastato che i tifosi della Lazio minacciassero da tutte le radio private di non votare più la Polverini alle regionali perché la politica si mobilitasse con una rapidità che altrimenti le è ignota. Da Alemano a Storace fino all'entourage del presidente Fini, l'intera destra romana ha esercitato pressioni sull'allenatore Reia per convincerlo a rompere il contratto con l'Aidus Palato e a correre al capezzale della squadra malata, dato che è, virgolette, inaccettabile che la Lazio vada in Serie B, chiusa le virgolette, come ha dichiarato il sindaco laziale di Roma. Inaccettabile, capito? Alla faccia dei sindaci sindaci delle altre città italiane che le retrocessioni le hanno sempre accettate, eppure i fallimenti. Inaccettabile per motivi di ordine pubblico, vabbè, riconoscere anni fa Berlusconi, e adesso elettorale. Che si sappia dunque, con i nemici dello Stato non si tratta, ma con i tifosi che minacciano di non andare a votare, sì. Preso atto del potere formidabile della lobby capitolina, come cittadini, non resta che augurarci che i tifosi della Lazio abbiano a cuore anche gli ospedali, le scuole, il lavoro. Il giorno che si lamenteranno di quello e non solo del loro presidente Lotito, forse i politici si batteranno per darci finalmente un paese, oltre che un allenatore migliore. Se questo è lo stato della democrazia, e lo è, mi viene un pensiero che non condivido. E vive il suffragio universale, una testa, un voto, ma a patto che dentro la testa qualcosa ci sia. Massimo Gramellini, La Stampa di stamane. Ha chiamato Marco da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Sono a Parma per lavoro e posso confermarle che non piove, quindi non nevica neppure. Direi che la partita si potrà disputare in maniera regolare. Perfetto. Stasera da Parma-Inter, quindi volevo rassicurare tutti sul fatto che il campo sarà sicuramente praticabile. Io sono qui fuori al Tardini e vedo che l'asfalto è addirittura asciutto, quindi perfetto. Insomma direi che non ci sono allarmi da portare avanti. No, no, difatti giro immediatamente alla redazione del nostro, appunto, Strade Meteo, giro questa informazione. Grazie Marco. Massimo, provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, io telefonavo perché oggi ho passato una bellissima mezz'ora per aver sentito a distanza di molto molto tempo, personalmente non è un po' che non lo sentivo né per televisione né per radio, il grandissimo Dino Zoff. Volevo fare una sorta di paragone e volevo chiederti la sua opinione. Sì. Non so, forse per analogie di carriera, no? Volevo paragonare il portiere che è stato Dino Zoff con quello che è oggi il portiere della nazionale e anche della Juventus, e forse è la persona che forse si avvicina di più al carattere, nel modo di parlare, di porsi, eccetera eccetera, al grande Dino. Lei che cosa ne pensa? Buffon? Cioè sta dicendo che Buffon è quello che si avvicina più al grande Dino? Sì. In porta? No, non è d'accordo con me. In porta assolutamente sì, anzi magari si può anche discutere, e si discuterà poi a fine carriera su chi dei due sarà stato più grande. Sarà un dibattito vero, perché stiamo parlando di un fenomeno che la carriera l'ha conclusa nell'84 e di un altro fenomeno a cui invece auguro che la carriera sia ancora lunga. Io credo che un paragone di campo sia assolutamente perfetto e interessante. Altri paragoni non mi sentirei sinceramente di metterli in piedi. Non so lei, mi scrive un altro ascoltatore, questo scrive dal Vietnam, pensate, si chiama Claudio Dordi, lavora in Vietnam e, solito gioco del podcast eccetera, è un corrispondente non dico quotidiano o settimanale, ma abbastanza periodico. Non so lei, ma io provo un senso di disagio nei confronti di tanta attenzione contro la bestemmia in campo e, in compenso, così poca forza nel combattere fenomeni quali il razzismo negli stadi. Il disagio cresce se penso alle reazioni di Abete e di tutti gli altri, alle note affermazioni di Capello sul dominio incontrastato degli ultras. Da lontano, e cioè qui dal Vietnam, mi risulta difficile capire. Io gli ho risposto: caro Claudio, a me risulta difficile capire anche qua da vicino. Quindi mi immagino lei, perché di lontano, come è noto, la prospettiva è sempre migliore. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Intanto volevo dire, sentire Dino Zoff è come respirare aria buona dopo una giornata di aria pesante. Poi volevo fare due considerazioni veloci. La prima, alcuni giorni fa il nostro commissario tecnico Lippi ha affermato di avere un gruppo di 16-17 giocatori, e facendo una considerazione veloce ho pensato: di questi 16-17 giocatori ci sono anche i vari Grosso, Cannavaro, Iaquinta, Camoranesi, quindi non lo so, ed è giusto portare dei giocatori che comunque hanno passato una stagione più in infermeria, faccio il caso di Camoranesi, Iaquinta, e magari non provare a... Se parliamo di infermeria qualche dubbio ce l'avrei anch'io, ma credo che qualche dubbio cominci ad averlo anche Lippi, perché per esempio Iaquinta, ne parlavamo nei giorni scorsi, è disperso da mesi. Mesi sono tanti, per carità, nel senso che siamo soltanto all'inizio di febbraio, supponiamo che Iaquinta guarisca, che da marzo sia disponibile, sarebbe addirittura un vantaggio a quel punto, certamente non per la povera Juve, ma sarebbe un vantaggio per l'Italia. poterlo avere fresco a quel punto per i mondiali, però a patto che nel frattempo ci sia il tempo per l'appunto di riacquistare una condizione, di andare in forma e tutto il resto, discorso che in parte vale anche per Camoranesi. No, credo che siano dei problemini abbastanza seri. Ovviamente c'è da aggiornare la statistica sulle panchine saltate, perché sono 13 allenatori saltati su 20 squadre a questo punto, con l'arrivo di Reia alla Lazio, che dirigerà tra un quarto d'ora il suo primo allenamento, è sbarcato due ore fa a Fiumicino, e con l'esonero di Ballardini. In Serie B, in questa tornata, 3 allenatori saltati, di 2 vi avevo già informato, il terzo è Arrigoni, cioè il terzo è Mario Somma della Triestina, che è saltato in nottata, e che già a sua volta era subentrato a Gotti, poche idee ma confuse direi, no? In questi casi, e il terzo allenatore è Daniele Arrigoni, che da oggi è alla guida della Triestina. Un paio di voci di vigilia su questo recupero di stasera tra Parma e Inter, quella di Beppe Baresi prima. Vittoria di Parma sicuramente sarebbe una bella vittoria, 3 punti in più e quindi un vantaggio che aumenta. Però mancano altre 15 partite, la Roma è lì che ci crede, il Milan ci crede. La grande forza di questa squadra adesso è la condizione sicuramente dei giocatori e della qualità, ma anche con la semplicità con cui riesce a sviluppare il proprio gioco. Questa era Baresi, sentiamo Guidolin. Mi dà fastidio quando si dice che la mia squadra non ha coraggio. E la giochiamo con il gruppo che abbiamo. Io ho fiducia nei miei giocatori. Abbiamo già dato secondo me, dei segnali almeno di salute fisica e di condizione atletica a Palermo. E questa era la ipotetica risposta di Guidolin. Il Parma è in un momento difficile, è in un momento, anzi diciamolo pure, di crisi, e certamente non sarà facile stasera tenere testa all'Inter, sia pure sul proprio campo. Dopo l'ennesima sconfitta di questa serie negativa che è arrivata a Palermo, sentiamo da Modena, chiamato Sergio. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini e buongiorno a tutti i colleghi tifosi all'ascolto. Telefono per ribadire un concetto a me caro, che vedo condivide le sue idee, a proposito dell'educazione in campo e della nuova trovata della questione delle parolacce in campo. Allora, io vengo da sportivo, dal rugby, dove ho praticato per molti anni, e non le dico in mischia che cosa si sente, ma non è mica una questione di educazione, sa? Io credo che noi, piuttosto che pensare a queste appenaggini, mi scusi il termine, dovremmo pensare di più alla lealtà sportiva dei giocatori, degli arbitri, del rispetto verso gli arbitri e soprattutto del rispetto fra le persone. A questo proposito mi permetto di dare un consiglio, se me lo concede, signor Garanzini. Io da ragazzo, giocando a rugby, in termini assolutamente non professionali, mi allenavo facendo partite di calcio proprio football, non rugby, oltre che gli allenativi normali. Non sarebbe ora, e adesso esagero e butto lì la provocazione, che le nostre signorine che guadagnano un sacco di soldini cominciano a fare allenamenti insieme ai rugbisti, che imparano anche la lealtà sportiva, oltre che imparare a stare al mondo? Sì, in qualche caso sono d'accordo con lei. Il termine signorine, che è un po' datato, no? da questo punto di vista, lo ricordo qualche decennio fa, non sono tutti così. Ce n'è qualcuno che indubbiamente, a cui indubbiamente un po' di educazione alla realtà sportiva, come ben ricordava Dino Zoff pochi minuti fa, farebbe certamente un gran bene. Beh, Giannini ci ha ripensato, torna ad allenare il Gallipoli, o meglio, torna durante la settimana, poi adesso per 4 giornate non può andare ovviamente in panchina, perché è stato squalificato per 4 turni per aver insultato l'arbitro e averlo afferrato per un braccio lunedì sera. Ma insomma, a Gallipoli ne stanno davvero succedendo un po' di tutti i colori in queste ore. Oggi la storia l'abbiamo già ripassata con Dino Zoff prima, e direi abbondantemente e proficuamente. Questo non toglie che sia il caso e sia il momento questo in cui ascoltare la rubrica di Nicola Filippone. Sentiamo il 10 febbraio. Sembra ieri. 10 febbraio 1985. La Fiorentina di Valcareggi, subentrato dopo 12 giornate a desisti, soffre in casa contro il Como di Ottavio Bianchi, ma alla fine riesce a imporsi per 2-1. Il gol decisivo lo realizza un attaccante di grande esperienza, il 35enne Paolino Pulici, che firma così la sua ultima rete in Serie A. Pulici ha messo a segno nel massimo campionato 142 gol, 134 dei quali con la maglia del Torino. Effettivamente qualche gol anche a Zoff, anzi soprattutto Zoff era, pensate che proprio Zoff era uno dei bersagli preferiti di Paolino Pulici nei derby torinesi degli anni 70. Che senso hanno due notiziari di viabilità fra le 14 e le 15 con le strade deserte e invece uno solo in 60 minuti al mattino quando si è tutti bloccati nel traffico? Fabrizio Milano, giro questa sua domanda, che in effetti proprio così campata per aria non mi sembra, a occhio e a spanne, la giro ai responsabili dei programmi e dei palinsesti. Quorum non ego, questo è poco ma è sicuro. Giulio dalla provincia di Modena, buongiorno. Pronto? Dica Giulio. Sì, dunque io sono Giulio da Modena, io faccio l'arbitro di calcio a livello dilettantistico e la trovata che riguarda le bestemmie in campo a livello pratico evidentemente per noi addetti ai lavori è totalmente, dire inquietante fare un complimento a questa trovata, non perché uno voglia essere pro o anticlericale, ma semplicemente perché questa regola è stata messa, forse l'avete già detto, io mi sono collegato 20 minuti fa nemmeno, è stata messa da chi il regolamento l'ha scritto, cioè gli inglesi. Premetto che gli inglesi la bestemmia non esiste nel linguaggio proprio anglosassone, quindi è un evento, voglio dire, quasi incredibile il fatto che uno, ma nel regolamento il linguaggio blasfemo è già passibile di espulsione, proprio perché chi ha scritto il regolamento prevede che sia un evento eccezionale, non un intercalare di molte famiglie, non a nostro merito per l'amor di Dio, però se andiamo a guardare queste cose credo che, come sempre, facciamo guardare alla gente il dito e non la luna. Bravissimo, io la penso così sia sul conto di Abete che tanto più sul conto di Petrucci. Veramente due dirigenti che da oggi stimo ancora meno, ma non perché non sia giusta la crociata contro la bestemmia in generale, ma perché ci devono essere dei limiti nel particolare. E soprattutto tutto va temporalizzato, no? In questo... vista la fase storica che il nostro sport in generale, il calcio in particolare, sta vivendo, lei pensi soltanto che ricavo da chi ha approfondito il tema stamattina, se l'arbitro non sentirà o non vedrà, e qui si parla di campionati di Serie A e di Serie B, cioè quelli maggiormente su cui c'è maggiore attenzione, anzi c'è maggiore fanatismo di attenzione da un punto di vista televisivo, si potrà comunque decifrare il labiale. Il termine per segnalare al giudice sportivo l'infrazione verrà spostato 4 ore in avanti dalle ore 12 alle ore 16 del giorno feriale successivo alla partita, in modo da facilitare il compito della procura. È la terza volta che lo rileggo stamattina, perché quando ho letto questa cosa io giuro ero convinto di essere davanti a un quotidiano umoristico, il vecchio famoso Cuore di Michele Serra, stavo pensando a un quotidiano umoristico che per l'appunto avesse, no, si fosse inventata questa, come quando Michele scriveva gli editoriali alla maniera di Biscardi, e invece è tutto vero e viene direttamente dal FIGC su imbeccata del CONI. Elio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Granzini, buongiorno. Dica. La chiamavo ancora per lo stesso argomento che ho chiamato un po' di tempo fa e oggi ho la conferma. A Bergamo settimana scorsa è apparso un articolo sul giornale locale in cui un volantino inviato al questore di Bergamo, reo di aver stretto un po' più le maglie attorno a certi ultras, sa da dove è partito? Dal computer di un assessore regionale alla cultura. Alla cultura? Beh, insomma, vede che alla fine c'è sempre un riscatto per tutto, no? Perché almeno l'assessore alla cultura vuol mettere il quarto di nobiltà, no? di questa provenienza. Elio, certo, questa è una prova del 9. Se voleva stupirmi non c'è riuscito, se voleva darmi una conferma invece preziosa di come gira il mondo, beh, certo, me l'ha data e soprattutto l'ha data agli ascoltatori. Grazie. Devo stringere un pochino i tempi. Marco da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Niente, sempre riguardo alla violenza negli stadi. Io sono un tifoso milanista e da anni che purtroppo non so più dove andare allo stadio. E in occasione del derby, l'ultimo derby, sono andato con mia moglie, con i miei amici, e il fatto di entrare in questi tornelli e fare tutti questi controlli mi sembra di non andare in uno stadio, ma di andare in carcere. Io volevo dire, invece di pensare sia alla bestemmia, a tutte queste, purtroppo, queste cose un po' di folklore, di pensare piuttosto a come addebellare il problema degli ultras, di questa possibilità di poter sciogliere finalmente queste curve, queste associazioni, che sono delle associazioni a delinquere, secondo sì, me. Invece di dargliela vinta, no? Come poi finisce, come finirà certamente nel caso di ieri a Roma agli ultras laziali, e non è stata la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. Da Ascoli ha chiamato Massimo, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Sono un tifoso laziale. Uh-huh. Io fino a qualche minuto fa volevo intervenire per criticare l'operato sia di Ballardini che di Lotito. Sì. Dopo l'intervento del mio pseudo collega tifoso laziale, ecco, mi sentirei di dire che il clima ostile, quantomeno, che si respira intorno alla squadra abbia contribuito ad affossare ai risultati perlomeno quanto gli errori fatti sia da Ballardini che da Lotito. Certo, che ci sono stati, che sono stati indiscutibili e abbastanza gravi, ma certamente quando le tifoserie, ammesso che la dignità della parola tifoseria possa riguardare certi personaggi come quello che prima ha tentato di intervenire in onda, non fanno che complicare le cose. Ma questo non riguarda soltanto la Lazio, sia ben chiaro, riguarda la Juventus, riguarda il Torino, riguarda in genere tutti quelli che tutte quelle tifoserie o pseudotali che si arrogano il diritto di rappresentare loro, no? la società o come minimo i cosiddetti colori sociali. Vorrei farmi ascoltare adesso un frammento di una frase, insomma di un discorso ufficiale pronunciato ieri dal direttore sportivo del Napoli, Bigon. Sentiamo. La questione arbitrale, che ovviamente è un discorso piuttosto ampio, non è per il Napoli in questo momento un problema, cioè non esiste, secondo la nostra opinione, la possibilità di, non lo so, di ipotetici complotti. Ciò non toglie che dati oggettivi alla mano, fatti concreti accaduti, indichino che c'è stato qualche errore che è andato a danno del Napoli in alcune partite. A pronunciare queste parole è stato ieri Riccardo Bigon, direttore sportivo del Napoli e figlio d'arte, figlio di Albertino Bigon. Ha aggiunto altre frasi che io ho letto ieri sull'ANSA, le ho trovate di una rara responsabilità, soprattutto perché pronunciate in questo momento e pronunciate sulla piazza di Napoli. Mi sono permesso di invitarlo domani in compagnia del Subabbo, e quindi domani ospiti della puntata saranno Riccardo Bigon, direttore sportivo del Napoli, e Albertino Bigon, ex allenatore tra l'altro del secondo scudetto del Napoli. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti.